c'era un bel sole in macchina, c'era un caldo in macchina. So che bisogna stare attenti a scoprirsi, perché come esci dalla macchina ti fulmina. Se sei in zona ventilata, in zona alta, tipo Piazza Risegni, arriva l'aria gelida e ti fulmina, ti crepa. E questo che microfono è? Cos'è? MD, Turner, cos'è? Perché io ho orecchio, non te lo saprei dire. Ma cosa sto usando io adesso? Eia, MC60, ah, ma no, su apparecchio adeguato, diciamo. Su Midland SLP, come mi avevi dato tu? Ah, gliel'hai messo su quell'apparecchio. E per l'alimentazione come hai fatto? Cos'hai? Batterie oppure? Che batteria montava? Mi ricordo che c'erano batterie le MC60, non tutti, non so se siano tutti che ce l'abbiano. Che batteria montava? 1,5. Io non l'ho mai visto dentro, A me me l'aveva detto coso, come si chiama? Porca miseria. Benito, quando si era preso il mio apparecchio, il mio microfono, aveva detto che il vano batterie delle MC60 era in pessime condizioni, era tutto semidistrutto. Io manco sapevo che esisteva un vano batterie, non l'ho mai aperto quel mic. No, sto facendo, le MC60 sul campo. Ah, vabbè. Comunque presumo che trovando la piedinatura, mettendo un adattatore, funzionerebbe anche sui baracchini normali. D'altronde è un mic amplificato, tutto lì. Sì, ci sono le modifiche, vengono già le modifiche per gli altri per i baracchini. C'è appunto una faccia, una modifica per il baracchino, cioè per Poi c'ha due impedenze l'MC60, uno è 50 kΩ, l'altra è, non me le ricordo più nemmeno, se è 5 kΩ o 500 ohm, non me le ricordo. Non so subito. Per caso senti il rumore di accornata? No. No, io non le sento. E poi sei distante, sai, c'è un po' di soffio, leggero soffio di... No, non me ne accorgo qua. No, no, rumori strani no. Sento la voce, sì, appena, forse di TV, appena, ma appena, niente di che, dai. Ma è ok, allora, sto andando bene, dai, un po' bene, non è conforto, sta parlando, non sta più niente. E qual è il 14 o 43-44, il 68? 14, sì, per la 27 sì, l'unica cosa che io non potevo tollerare è che non avevo lo squalcino M, vabbè, pazienza. Sì, sì, invece è cosa che a me non piace, io qua lo lascio acceso quasi tutto il giorno, ma metto lo squelce e non senti nulla a meno che non parlino. E qual è stato uno dei motivi che me l'ha fatto dare, non... cioè. Sì, sì, no, è così, è vero, è vero. Però guarda, mi piace. Guarda, io ero un po' così, per prenderlo, perché ecco, mi piace un po' troppo, mi piace un po', mi piace più 44, no, 44. Però guarda, no, io come è male anche questo, anche quello che mi piace. Sì, ma è giusto fare l'esperienza anche di quel tipo di apparato, provarlo, poi se proprio uno non riesce a farselo piacere lo può rivendere. Sì, no, no, no, beh, questo mi rimane, questo mi piace. Lo conosco per questo, lo conosco. Sembra di questo, ma mi dice. Ehi, e manda laterale, l'hai provato? No, negativo, perché ancora non so come si vuole mandare laterale. Me l'ha tirato, però ci sono tutti i puntati a piacere. pulsanti, modalità SSB e USB. Unifor se era bravo, vabbè. Poi vabbè, rispetto a per centrale, non mi ricordo se era l'uno o l'altro di mano, se era il... Vabbè, fregatene, non è importante. Allora, guarda, l'SSB dopo uscire dalla memoria, capito? Uscire dalla memoria, poi andare in servizio. Sì, sì, sì, è vero, io 30 canali c'erano memorizzati, solo che il selettore delle memorie giocava, cioè andava da una parte e andava indietro, se non era preciso, perché sempre apparecchi di una certa età, tutto lì, però in banda laterale è un bijou perché c'hai almeno il doppio di watt, in FM è lo stesso, c'hai il doppio, c'avrei un centinaio di watt presumo. In AM dipende se è modificato o no, potrebbero essere 40, forse anche 50 modulati, se è modificato anche 100, però poi diciamo stai ammazzando i finali, un po' li stai... già capito, no? No, no, questo è tutto originale, AM 50 watt, USB 150 circa, però in AM 50 watt, non so di... Fischia un po'. Ehi, altro che, arriva a 8, fischiando arriva a 8, Santiago 8, e quindi c'è dei picchi, quindi ricordate il 7, il segnale normale, 7,5 modulato, e quando a certi momenti o fischiando arrivi anche a 8. Allora, 10 e poi modulati 20. Io sono con 3 watt e mezzo, 3 watt e mezzo, nudo e crudo, com'è? Nudo, crudo e scappellato pure. Allora, portiamo 5 e modulati 5. C'hai tutti a 6, capito? E rispetto al QRM, per esempio il QRM a quanto ce l'hai? Scommetto che con la Game Master non hai nemmeno QRM. Oh niente, quello è zero. Si sente il fruscio di sotto là. Si sente. Però quello è zero. Non mi muovo manco lo sviluppo. Beh, a te. Però questa lì là, è grande anche, ma è roba, non benissimo. Sì, sai cosa di bello? Sì, qualcuno dice che rende magari 1 o 2 dB in meno della Mantova, anche sui forum sto leggendo radiatori che si stanno afferrando, no? Con la storia della Game Master, della Grazioli, delle Mantova, ma lì stanno a parlare di decibel, cioè un decibel in meno, due, cioè, vabbè. Di bello è che è larga banda, cioè non devi stare a controllare stazionare, puoi andare sull'80 sotto come sull'80 sopra e non c'hai stazionare un cavolo. E poi è silenziosa, capito? Sì. A proposito era bella, quando c'era mai tempo c'era quel ventone forte, vederla piegata era bellissima. Ehi, allora stavo leggendo sul forum, sai che errore hanno fatto certi con la Game Master? Ne parlavano vari amatori, UCB o tutte e due. Qualcuno l'avrebbe installata trattandola come un'antenna di alluminio, cioè hanno stretto la fascetta che tiene lo stilo, no? A metà, dove c'è la giuntura, l'hanno stretta a tal punto come se stessi stringendo i tubi di metallo, no? Che a qualcuno gli sono formate delle microfilature verticali sulla canna, no? Che sullo stilo, dai, vetroresina, PVC, non mi ricordo di cosa sia. Perciò poi col vento forte queste microfilature sono aumentate e hanno fatto sì che si rompesse a metà, alla giuntura, capito? Eppure l'errore qualcuno l'ha fatto, adesso non mi ricordo che, comunque in Italia, dai, cioè le hanno strette a crepatura, magari oppure con le chiavi, e hanno filato il materiale, capito? E quindi al primo vento gli ha fatto danno. Eia, poi vabbè, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Comunque silenzioso, guarda, avere un'antenna silenziosa è già una cosa molto, molto, ma molto positiva. No, va bene, un attimo sono abbastanza soddisfatto. tanto non riuscire a prendere il Galaxy Saturn Echo. Ah, tu avevi il Saturn Echo anche? Non me lo ricordavo, boh. Sì, ho anche il Galaxy, mi accedo qua. E infatti anche quello, quando si hanno apparecchi che si usano poco, è meglio usare tutte le funzioni intanto, eco, autoascolto, in modo che tutte le parti del circuito entrino a funzionare, capito? Per evitare, come detto tu, eventuali connessatorini scarichi o roba del genere. Cioè, ciclicamente fa lavorare tutte le parti dell'apparecchio. Autoascolto, beep, ecco, qualsiasi cosa, capito? Eia, ogni freddo. Io sono ancora vestito per la macchina, adesso c'è un po' di freddo. Infatti a breve mi chiudo, mi metto in versione da casa, un po' più coperto. Perché in macchina c'era caldo col sole. Eia, ascolta, al lavoro avete limitazioni con questa storia della zona arancione oppure? No, nessuna limitazione, assolutamente, niente. Ma non si possono fare limitazioni, sennò fa un casino per i passeggeri, per i quattro sacchi, ci possono fare limitazioni. Eia. Se vogliamo mettere le palle, dice, beh, noi incrociamo le braccia, blocchiamo rifornimenti, potete tenere in scacola una regione. Ci fermiamo noi, un problema, lo sa. Ci fermiamo noi, ci ferma la provincia di Sassari. Eia, già io mi ero un po' spaventato quella volta del Covid, i primi tempi, no? Che avevi detto che, non so, i rifornimenti, c'era il rischio che non arrivassero rifornimenti alimentari, e io ho detto, ah, non finiremo come quei film americani di virus, che vedi la gente arraffando tutto dagli scaffali. No, per fortuna non è successo. No, per fortuna non è successo. I primi tempi sì, la gente era spaventata, faceva legare al supermercato, i primi tempi. Poi, vabbè, siamo arrivati, è una cosa normale. Mi hai ricordato una cosa, allora un titolare di un market piccolo, di un mini market, no? Dice, ma io, questo prima della pandemia, ha detto, ma io oggi ho compreso i salienti, riempiendo i carrelli a strozzo, prima è della pandemia, molto prima. Questa gente che riempie i carrelli, dice, manco dovesse venire un'epidemia. Ti devi ghianeggi, ho appena acciato. Però sta facendo un problema, mi sto iniziando a sentire gente da lontano. Propagazione può essere. Sì, la propagazione. Nel tempo. Anzi, mi hanno detto che c'era. Cioè, propagazione non viene mai. La sera che sono andato in campagna, era la domenica pre-Covid, no? Ho detto, ne approfittiamo domenica, perché sennò poi lunedì di nuovo zona arancione. E mi hanno riferito che c'era una propagazione notevole. Cioè, la volta che me ne vado altrove c'è propagazione, le altre volte nulla, zero, buio totale, vaffangala. E però non si poteva sapere. E già la propagazione viene, va, però sono soddisfatto di questa notazione. Allora, ero convinto che non andasse invece a fermi, non si muovevi, uno già va bene per questo baracchino, cioè baracchino, per questo apparato. E che alimentatore è? L'alimentatore ce l'ho accanto lì, ce l'ho da tantissimo tempo, ce l'ho proprio 5-6 anni, un PS68S. Sì, ma infatti l'assorbimento non è esagerato, cioè anche se vai in mandarterale in FM, sono 100 watt, quando sarà? 12 ampere, 13, adesso non mi ricordo, tanto tempo fa io controllavo gli ampere di consumo, in FM poi sai, continui, i watt, vedevo l'assorbimento, non è un problema. Va bene, sta scaldando, sale un po' di più la fatto quell'amperometro, però va bene. No, sì, perché a freddo, se, che ne so, se ne hai 10 di watt a freddo, man mano che scalda comincia a salire, 10, 15, 20, quando è bello caldo è a pieno regime, là, il finale. Sì, ma non vorrei che scalda tutto fuori nel battolico. Ah, l'alimentatore sta scaldando, ho capito. Quante ampere ha? Oh, che fisso 6 o 7 ampere. Però va bene, ci sono due. Oddio. Quindi 8 ampere saranno di picco, un pochino poco. Io credo che, di ricordare che ne consumasse 10 di ampere, 10 o qualcosina in più. In FM ti parlo con 100 watt tipo, no? È un pochino sotto alimento, come dire, un po' scarso me. Certo, in AM se ne usi 20 modulati o anche 30 non succede niente. Guarda, io con l'alimentatore da quanti ampere? 7 ampere continui, ci ho portato 40, mi pare 50 watt FM con nessun problema, ripeto, 50 watt FM, quindi continui, non in SSB. No, ma io ho lasciato così, facendo 10 watt, mi ho durato 20, boh, lascio così, già mi sento un tutto, basta, meglio, vado così, non tocco il fatto, non tocco niente. Guarda bene così, però l'apparato, cioè sta provando bene perché l'apparato non ha abbastanza le luci. Perché sei in AM, in AM sì, è ancora tollerato, anche 40-50 già te li tiene. Il problema è in SSB a piena potenza o in FM, è tutto lì, e io. Bene Eugenio, io, siccome ho le mani fredde, per evitare, no, io stacco e mi copro, mi metto in versione casalingua. E sentiamo che io mi preparo a prendere l'altro grazie del questo sentiamo più in là che coincide, ciao Marconi, ci sentiamo. Sì, comunque man mano che scalda sta aumentando anche il segnale, 6 oltre 7,5 fisso e 8 pieno modulato, quindi vedi come scalda pompa di più. Ok, dai, buon lavoro, buon tutto e ci sentiamo. Ciao Eugenio, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo, ciao ciao. Hai fatto la bernacchia, maledizione. Sì, vabbè. Lo campanello di casa suia, chi sta? Suia. Andiamo, certo. Andiamo, Luca. Ma tu eri? No, già, assolutamente, io c'ho il bip. Voi non lo posso levare, ma non ero io. No, perché non sono qua a segnare che sono sdraiato, capito? Non ho manco guardato. Ma pagato me le borse interessante. Lascia divertire. Quindi c'è una futina in campagna, me. Sono arrivato ora. Sono passato a vedere un monopattino elettrico, però mi ha detto che lì in via Lumberto non ce la fa salire. E qui della fianchi a lui. Cosa c'è allora il motorino che non ce la fa? 300 euro costa. Poi se voglio fare una garanzia di 4 anni mi costa 3,50. Ma tu sei con... No. Ah, cabagabo. Ma quel microfono poi l'ha tenuto Claudio, se non sbaglio. E si conferma. Sì, boh, io avrei fatto una cosa, lo avrei messo quel microfono lì a casa tua e quello in casa tua dalla tua ragazza. Ma qua non rende già, il bit usciva bene, c'era qualche filo da cambiare. Beh, mi sa che andava a fame, rende a chi va giù qua, c'ho fame. Il compagno mi sono mangiato due arance, dolci, pensavo di aver messo i buoni, però c'ho fame. Dai, già arrivo subito, ci sentiamo dopo. Vai vai, ci si mangia di bigoni. Hola, attenzione, 10 cambio. Vai, fa la cacchetta io. Attenzione, 10 Blecco. Blecco? Avanti. Buonasera. Buonasera lì, con chi ho l'onore di parlare? Doppio rumo da questa parte. Sì, doppio rumo da questa parte, Danilo. Poi Dani. Vabbè, con che affari che stai modulando? Con il 7000 e l'MC60. Ah, KK, sì sì, va bene. Io invece sto parlando con un apparecchio degli anni 80. Chiamasi Ruiz. Con la R. Ruiz, che? Come la Ruiz, la Ruiz. Come la Ruiz, così. K, esatto. Vai e cercalo, vai. C'ha tre strumenti, bellissimo. Ah, io sono la madre, esatto, io mi aggiungo. Oh, aspetta che lo cerco, no, non ho mai sentito questa radio, aspetta. Metti Ruiz Mase e c'è quello a tre strumenti. Cos'è che si scrive Ruiz e poi? Mase, apparecchio Mase Ruiz. Ruiz con la Y, Y. Beh, l'hai trovato, dai. Ma spera che il T9 mi ha scritto mese. Cosa? Il T9 mi ha scritto mese, ma invece scrivemi mai, mi ha scritto mese. Ah. Come che c'ho tutti quanti quei pomi lì sotto? Ah, tre strumenti verdi, guarda. Tre strumenti verdi, poi lascia il canale, puoi mettere l'orologio, sempre digitale, insomma, c'è un sacco di roba. C'ha tre strumenti, verdi a sinistra. Il modulometro, anzi, quello dei canali, non il modulometro, quello dei canali a destra, quattro pulsanti, lo stesso a sinistra, e poi sotto c'ha tutti quanti quei pulsanti. Manopole sono. Esatto, quello è. Cazzo, è vecchia come radio. È vintage, è una vintage. Però la parola ti dice che cos'è. È la Ruiz degli apparati. 23 canali. No, lui è 40. 40 c'è anche le bande laterali. Ah sì, 40 canali in AM. Sì, ah, ce lo sto leggendo. Perché quanti in inglese? 40 canali in AM. Nel 70 noi facciamo dei giornali degli 80, invece del 70. E praticamente c'è l'orologio anche digitale, si è messo l'orologio però non esce con i canali, esce l'orologio, tutto del display dei canali. Sì, già lo sto guardando. È vecchiotto come radio. La mia non c'è un graffio, è nuova. C'ha i laterali che sono in legno e la parte di sopra tutta quanta è la mela di quella grossa. Buonasera Toros, ma non avete un controllo? Noi se, come strumentazione lo strumento, cioè come radio va benissimo, ma di segnale non te lo posso dare perché questo qui arriva a fare lo scala tutti i segnali, devo regolarlo. No, ma non mi interessa la segnale già, mi interessa la radio. Com'è Dani da te? Guarda, a me è bella forte come ieri, cla. Bella forte come ieri. Ehi, adesso stavo cambiando il gambo che mi hai dato poco fa. Ho messo quello là, flessibile, molto bello, però tutto nero. Bello. E le capsule sono uguali, mi Dani, non è che cambi molto. Quindi cosa dici, procurarne un altro paio? Sì, procurare quei piantoni che facciamo qualche modifica, qualche microfonino, di già andare. Vai, ricostruiamo un microfono da base a Luca, là. E si conferma. Bello. Molto bello. KK. va bene, dai, te lo chiudo, non sembra che abbiamo sbagliato qualche filo, mi è avanzata una vita, no, che non so quindi andare, adesso accerco. Riprendi già, dai, mi ascolto, sono qua. Ehi, ehi, tu lo sapevi qua che era degli anni 70 lui, tu pensavo anni 80. No, no, no, vabbè, dipende dalla serie, ne hanno fatto diverse serie. Hanno iniziato dagli anni 70 a farli sino agli anni 80, 82, una cosa del genere. Ma sempre... è sempre bello da vedere. Beh, è sempre bello da vedere, scusa, chiudo l'ecco, c'è l'ecco aperto. È sempre bella da vedere e da usare anche, molto bella, una grandissima radio. Tu sai che avevamo fatto di tutto per prendercela e poi me l'aveva portata via a volte perché quella serie lì non ce l'aveva, fatecela lui. Va bene, dai, fatemi finire qua già, sono in ascolto, poi rientro subito. Gatta gatta. Allora, bene, avanti da lì. Ehi, per avere gli anni che ha questa radio che stai usando, spinge bene, me. Tra 9:30 mi arrivi qua. Lo so. E gli ho messo una statica come microfono, palmare. Avevo quello, gli ho messo quello, dai. Già va bene. E le dica lì, praticamente che con 5 watt, ma te ne dà 8 modulati. Io sto guardando, saranno 8 watt. Prova a mettere l'importante in fissa senza parlare, guarda. E così ne dà 5, parlando le dà 8. Già va bene, ma se esce anche molto bene. Bella forte anche la radio. Sì, è un bel apparecchio, te l'ho detto, la Low Voice dei vecchi apparecchi CB. Poi vabbè, l'hanno fatto degli altri, però questa qua è questo, il Galaxy, erano tutte le radio migliori, infatti scegliamo tutte quante quelle lì. C'è anche quella della Inter che ha due strumenti, quella della base, il base della Inter, che è un bel bizzante. Oh, non ce l'ho presente, mi devi dire il nome così riesco a capire qual è. Luca, ci sei? Secondo me sembri agente di burro, oltre a magna. È il Multicom 497, guardalo. Aspetta che prima me lo scrivo su penna, ripetilo. Multicom 497, è quello lì. Aspetta che lo cerco. Sì, ma quello già è molto più giovane rispetto a Royce. Sì, quello è giovane. Molto, molto, molto. Aspetta un attimo, arrivo subito. Sì, ma è molto più giovane, sì, lo so, che è più giovane. Ma qual è quello che c'ha il display gigante? Cosa, Dani? Qual è quello che c'ha il display gigante? C'ha due strumenti grandi, un display grande. Sì, c'è bello anche questo, ma questo qua si vede che è più recente. Vabbè, io praticamente a quello lì gli ho messo le luci blu, tu lo devi vedere illuminato da Fabo. Qualcuno con le luci blu già si vede, blu, viola sono. No, io gliel'ho messo blu, gliel'ho messo. Già è carino come apparato anche questo. Io c'ho quello, lui se è il Galaxy. Il Galaxy Saturn Echo con le tarle super Sidekick. Sono appassionato, mi piacciono, però non sono tutti che mi piacciono, quelli, diciamo, quelli vintage non sono tutti che mi piacciono. Questa qual è? Il 497 W? Sì. Quello che fa 25-30 watt. Sì, allora già è questo. È molto bello, diciamo, il nometro, wattmetro, invece questo qua, lui c'ha anche le stazionarie segna, senza fargli le SVR, te le segna direttamente. Ah, direttamente in automatico lì c'è, lì fa. Cappa, ti segna le stazionarie, il modulometro in più, il segnale watt, eccetera, eccetera, il segnale che sta arrivando, dai. No, già è carino, mi sto leggendo tutto quanto. Mi sta appassionando. Anche quello di poco fa mi stavo guardando. Quello di poco fa è più interessante perché c'ha tre strumenti. Allora, che male fatto che il Galaxy è sempre il numero uno, Galaxy. Galaxy, allora, Galaxy. KK, finito, dai. Messo a posto tutto qua. Allora, lascio così la radio, da lì. Devi abbassare appena appena il volume del mic. Addirittura troppo forte. Guarda, se va bene così, va bene. Possiamo dire di sì. Giorgia, che mi piace burottosa la modulazione, eh? L'importante sia bella forte e chiara. No, già è bella forte, so che poco fa eri troppo forte. E io devo essere forte, capito? Per quelli pochi gabbi di bugnetta che ascoltano, poi vanno a criticare. Guardo. Ah, sapete, dai, io. Allora, alimenta la mano, che se lo posso crescere bene, posso crescere. Sono adesso viventi. Ah, detti barrido c'è senza ferie. Guardo burro, è lì che dentro. Ah, puro. KK, no dai, dimmi se va bene, a parte gli scherzi adesso. Lasciamo perdere il discorso del cacchio, un po' come una frutta a me. Ho detto, dimmi se va bene, dai, la lascio stare così, ce l'ho a 4. Dai, lasciala così, va benissimo, è bella limpida, limpida la voce. È bella limpida, forte e limpida. Ascolta, inserisco l'ecco, vediamo un po'. Così va bene l'ecco, funziona. Sì, già sta andando, però non mi piace con l'eco quella radio, me la Giuseppe Cavazzo io. È bello l'eco. Infatti non lo voglio io, non mi interessa, era giusto per provare se avevo fatto un bel lavoro, se mi avevo lasciato qualche filo staccato. Se dice bene già, se dice bene, caspita, ieri stavo facendo le prove con Marco, mi ha detto che è favoloso come spinta microfonica sul Galaxy. Senti che microfono stai usando? Il Master Plus. Ecco, Master Plus Classic, c'è scritto. Ecco, Master Plus Classic. Ma nuovo, bellissimo, nuovo. Poi c'è il LED nella dove c'è la capsula, c'è un anello con i LED che si illumina di rosso, molto bello. Claudio, io ti sto dicendo che tra questo e il partner c'è il fatto, sono cambiato un po' le tonalità, ma c'è più valgono come potenza, come radio, come una bella base. Io ho fatto le prove col Turner in cuffie, secondo me spinge più questo, non lo so, vabbè, non fa niente, l'importante è che vada bene, almeno il Turner lo metto su quello grande, sul DAC. Io adesso cambiate, non me ne siete mancati. E già me ne sono accorto che più la modulazione è diversa, no Dani? Sì, no, ma è completamente diversa la modulazione. Va bene. O magari quando nel tempo di furo, quando è stata comprata, è stato modificato, adattata proprio per quella radio, quella potenza lì. Sicuramente sì, sicuramente sì. No, ma questo che mi hai detto tu, il Galaxy è favoloso, eh. A parte che è nuovo, Dani, io non ci ho fatto niente, i maniglioni ho verniciato perché c'era qualche graffietto. Però c'è un funzionamento allucinante, c'è una potenza micidiale, cioè io sono a 8 volte di portante e me ne modula 15, c'ha dei picchi allucinanti di modulazione. In banda laterale da 35 watt, non 25, 35, sicuramente l'hanno toccata, però io l'ho lasciata così perché è una favola. Ma non è che per caso sono stati cambiati i transistor, no? No, allora, io ho consultato quello che appunto mi ha revisionato il 430, che lui fa baracchini, fa quelli corti, modificati, l'ho chiesto appunto al Galaxy che potenza doveva avere e mi ha detto la potenza è 25 watt in banda laterale, 15 in AM, mi ha detto però facendo una modifica riesce ad arrivare anche a 40 watt, capito? E il tuo Gusimi, il tuo bomba è una cosa allucinante. Infatti spinge forte e non c'ha, come si chiama quella specie di cose che fa, che lo usano, che si inserisce con la scheda, perché si inserisce per uscire ancora più forte. No, non c'è la scheda corta in questo, c'è una modifica di roba di resistenza o transistor, non so dove va, comunque non mi interessa, io non ne capisco niente. E mi ha detto che pompom, beh, fatti questo, in AM così con la potenza minima io sono a 10 watt e sta spingendo a 15-18. Se invece metto la potenza massima arriva a 30 watt. in AM, in FM lo stesso, e in banda laterale lo stesso, da 30 volte da tutte le parti. E in banda laterale provatela, Icla. Sì, ma la tele è una scheggia, se non è FM non si intende bene. Mangano guarda, sono contentissimo. Oh Dani, veramente. Me l'avevi detto che funzionava bene, ma io già ti ho creduto, però usandolo adesso per me è la miglior radio che io abbia mai avuto, ne ho avuto tanti di baracchini, però questa è molto molto bella. Bella ricezione, bella trasmissione, funziona bene, funziona bene. Avanti Gianni. Sì, io. Va bene, un bel apparecchio. No, è bello esteticamente perché è nuovissimo, io non l'ho manco verniciato, non c'è toccato nulla, ti ho detto verniciato i maniglioni, deve essere spostando e facendo, c'era qualche graffietto, adesso sono perfetti, però non l'ho toccata, è tutto originale la vernice, e dentro è perfetta, nuova. Danilo mi ha fatto un capolavoro perché gli ha messo, ti ho detto, i led bianchi, tutto lì quelle lampadine che ci sono dal cacchio gialle, e le metti due led bianchi, ma lo sai quanto è bella, si vede bene lo smitter tutto illuminato già, è l'unica radio che uso senza occhiali, la verità qua. Ma tu li hai messi Danilo? Sì, guardate, li ho messi io, se ne voglio ancora un altro paio. No, intanto non ha giocato il radio, il DAC c'ha, non è a led, c'ha le sue originali a bananina. Questo va bene così perché veramente è molto bella con la luce bianca, bella, bella chiara. E il 430 c'ha la luce bianca lo stesso. Anzi, me l'ha messa nuova il tecnico, perché l'ho detto, metti tutto quello che ci vuole, non stare lì a guardare. Infatti mi ha detto, ti cambio anche la lampadina che è troppo gialla, me l'ha messa leggermente più bianca, ma va bene lo stesso, ottima. KK, avanti già. Io un attimino che cambio radio. Ah, io attacco al cobra, al serpente. Sì, caro Danilo, va bene così. Mi immagino fatto un altro bacio di scatole. La cosa mi gira le balle, i piatti, cazzo. Le scatole che devo fare per i piatti, perché devi tutti incartarli, Danilo, se no si rompono. I piatti e i bicchieri sì, che c'è un macello. Infatti li ho lasciati la mano, non agio più gana, anche perché stavo facendo questo microfono e quindi ho mollato un po'. Allora se la bigliucci a domani, dai, non ne ho più voglia, mi rilascio un pochino. Ma giornali, la Nuova Sardegna te ne servono? Meglio avanti Roberto Quarratto, vado sempre a lui, me li dà sempre lui. Scatole me li stanno portando dal McDonald's. Quindi scatole diciamo che ne ho ancora, ma ho terminato, c'è solo il vestiario Dani, c'è solo il vestiario, finalmente ce l'ho fatta. Adesso aspetto che probabilmente venerdì termino i muratori, così lunedì inizio a pulire e la prossima settimana mi trasloco, se no non ne ho gubiti. Non ti trasferisci un casino, no, non esci più. Sì, vabbè, già mi hai visto, sto prendendo con molta tranquillità, no, non agio bressa, me la futti nuda. I mobili già vengono due amici che lavorano a Mondo Convenienza, che montano e smontano mobili, che sono uno il marito e uno il figlio che abitano qua nel mio palazzo, vengono loro, ma tocca, smontiamo tutto, appena c'hai il furgone ce lo dici, sappi che noi il sabato e la domenica siamo liberi tutti e due, perché non sono alle vendite, capito? Smontiamo, così ti tieni tutto pronto e te lo fai. Poi quando sei là mi chiami e te li ripiazzo. Questo come va? Manca il paragone con chi si vede la tendenzura. Come va questo qua? Qua per fortuna lo smitter già va anche oltre, però questo spinge un pochino di più. E come va? Com'è? Sai, appena appena di ecco. Chiudilo che è più bella senza ecco, cazzo. Perché a me piace così, mi piace con un po' di ecco. No, ma dico, è forte, massa, com'è? Non è come quella di Claudio, perché Claudio c'ha anche lui la voce grossa. Però già ti avvicino un pochino, già una bella radio, bella forte. Perché sto parlando da lontano, guarda adesso. Ma va a fare una burutto. È troppo alta adesso già. Ormai da l'uomo è adesso. Quanto ce l'hai lo slider del saletta? Quanto è? basso, ce l'ho a metà. Meno di 5 lo devi mettere, alla tacchetta del 4 io ce l'ho. Ah beh, dai, adesso l'ho messo a meno di 5, dai. Oh, visto, là, che adesso sei tu, lascialo così, cazzo, lascialo così. Cappa, cappa, faccio capito, dai, ripeti Danilo. Beh, no, adesso già va bene, già è più tranquilla la voce. Ma poco mai riprende un bel di Marcello. Oh, già, provateli ai bip del microfono. Cosa? I bip del microfono, provateli, che cazzo va di bocca, brutto. I bip? Ehi, che saletta c'ha il bip? No, no, lo sapevo. Cazzo, quel pulsante che c'è dietro, quel tasto c'è dietro è il bip. Ah, io pensavo che fosse, per spegnere la cella. No, no, il bip è quello. Prova a vedere. Appunto, vedi, metti anche quello del Dano, metti anche quello del il Cobra stai usando. Ma questo come fa il bip? Fa bip, mi aspetta, lo metto io qua. Ah, non lo sapevo, bra. Mi guarda, vedi come fa qua. È bellino, pivo. Così fa questo. Poi ci metti quello del Galaxy Natre, guarda. Lo so. È tipo quello che aveva Alessio, che c'ha. Non lo sapevo, io pensavo che fosse poi spegnere l'accendolo per non far consumare le batterie. No, no, no, quello è il bip. Anch'io lo lascio stare così, intanto per cambiare il bip. Vai, Dani. Dani è un campione, cazzo, mi ha dato un microfono veramente bello, sono contento, pensavo che non funzionasse perché mi sono preoccupato per Luca e invece evidentemente non è compatibile per la sua radio, ma boh, che strano, il telefono ha le stesse connessioni. No, ma anche a me, però mi ha detto che mi ha detto, ho visto che li metteva la portante e facevo l'alternata sopra, io mi sono un pochino preoccupato lì. Poi quando sono andato a prendere gli ho detto ce lo provo a dare a Claudio, ma vedete se poi esce lì dallo stesso problema, perché lo usavo con quella radio e invece esce nuovamente tranquilla, sicuramente è fatta solamente per quella radio lì o magari c'è la connessione diversa, boh? Non lo so, io li ho smontati, li ho dissaldati quei fili del cavo per cambiare il piantone e poi li ho risaldati. E va bene, va benissimo alla grande. Beh, questa è la radio tua, il microfono tuo, quindi io ti avevo già sentito, perciò va bene. Oh, claro, a volte bisogna attaccare anche i fili, questo Rossi mi ha fatto impazzire. Ti attaccavo quattro fili, usciva di portante e non usciva di voce. Questo ne ha due già addirittura, c'ha due fili, i due che sono soldati alla capsula vanno soldati al microfono, calza il rosso e buco, il bianco va eliminato, e a volte le radio sono un casino, se vuoi ti dica, buco. Questo qui mi ha dato un po' di filo da torcere, questo mi ha dato un po' di filo da torcere, e vabbè, succede. Si vede un bipi che va bene, ma già, visto? Mi fanno scoprire una cosa nuova, io qua sinceramente pensavo che fosse per spegnere un microfono. Io lo sentivo adesso che c'era questo bipi qua, però pensavo l'avesse messo lui. No, no, no, la saletta ce l'ha già, te lo dico perché l'ho già avuto, capito? Quindi ce l'ha. È anche bellino, vai, per non tenere sempre quello del Galaxy. Vai Dani, com'è il segnale da te? Buono Dani? Sì, 9.20 fisso, però a volte dei picchi di 9.30. Già va bene, da, già arrivi bello forte. Sto dicendo, c'è dei picchi di modulazione allucinanti in radio. Sono a 10 watt, sicuramente quel picco è perché sta andando quasi a 20 watt, va. 18 modulati, è allucinante, va bene, va bene. Poi c'è una bellissima ricezione. KK, vai già. Io come ti arrivo il segnale? Tu sei a 9.30 e però a volte dai anche i picchi di 9.40. Per fortuna quello che ho io, lo smitter, già arriva a 9.60. Chi è che ha staccato il lineare? Io te lo vedo. Buonasera. Ciao Claudio, Gianni e Danilo. Stacca il lineare però. No, non ne ho di lineare io attaccato. Io sto scendo con l'arrivo dell'apparecchio. Tu mi arrivi neanche 9 qua, mi arrivi, un pelo a 9, e sei 9.10. E vuol dire se usano un altro apparecchio, ma non, non ho niente attaccato. Avanti Claudio, buonasera. Ciao Franco, Franco. Vabbè, tu sei anche vicino a, a Danilo, sei da attaccare a San Rosso, in chimica. Però va bene, io sto andando con, ho detto 10 watt, mo trovate quasi 20. Col Galaxy Saturn. Ciao Fra, buonasera. Santiago Novara 10.5, tu stai arrivando come sempre, ottimo. Avanti Danilo, i saluti a Franco. Sì, ciao Franco. No, anche qua ti arrivi bene tu. Solo che lui è vicino a me, è ovvio che mi sale un pochino a palla. Quello sì, quello fa anche. Niente, no, ma io sto usando un coso. Claudio, presente l'inco con la Corsa Delta. Io sto usando lo Saturn Echo con Saletta lo stesso, con Saletta Master Plus Classic però, non è Master Plus o Master Pro, Master Plus Classic. E io sto usando il Cobra con le Saletta. Ma quello che c'ha due, ah sì, Classic, sì, quello è quello, che ha due Smith. E io sto usando l'S9 con microfono normale. Mi ha bulldozermi. Allora Massimino, buonasera, buonasera. E vabbè già anche quella radio non ha, non ha potenza di vita, grazie. Di sciabompa ma la giusti, per quello stai arrivando forte anche a Franco. Ciao Massimino, avanti, sono io, Franco, Gianni e Danilo. Ehi, buonasera a tutti, dai, saluto tutta la ruota, sono entrato così a gamba tesa, là. Sicuramente non so se lo va arrivo. No, qua non ci arrivo. Poi faccio fare la fonte a Claudio. Gaffa, ciao Franco, saluto a tutti, dai, avanti da lì. Sì, hai messo a sorso com'è che ti arrivo? Fammi questa cortesia. Come mi stai arrivando? Non per Radio 5. E con quale radio sei tu? Presidente Lincoln. Per microfono o il Saletta mi hai detto, giusto? Fa. Tutti con il Saletta, siamo là. Alla fin fine, microfono che va bene. Ma non hanno lo stesso tuo microfono. Non è uguale identico al tuo, però. Cosa avete parlato in due? Cosa hai detto, Dani? Che non penso che siano tutti quanti uguali al tuo il microfono. Avranno quello normale loro. Quello con uno Smither. No, io e Franco ci abbiamo due Smither. Modulometro e lo Smither dell'Echo. Quello di Gianni non lo so. Già, tu due Smither c'hai uno. Gianni... Ma Gianni ci ha venduto la radio. Avanti, Massimiliano. L'unico povero sono io là, che sto usando CT a Palmare. Con la testa in radio che va a giro, no? No, no, questa è più piccolina qua. Ehi, la Giuretta, il magno quello. Eia, positivo. Dalia, ci arrivo da te, sì. Ho voglia che ci arrivi. Bello forte anche. Ma io aspetto, chiudo un attimino che vado a fare il bagnetto a mia figlia. Sai, come finisco mi avvicino dopo. Cappa brioche, va bene, anch'io sono ancora con i botti grossi, là. Cappa, cappa, avanti, fra. Ho acceso perché io c'ho il vizio, prima di farmi la luce, accendo sempre la ciambata, si accende tutto. E quindi vi ho sentito, sa delta, bim, bum, ma, e allora ci detto, ah, e ci ho messo, va arrivo a susso. No, io qua sinceramente non ci ne avevo uno, però lo usavo con la KB23 Saletta. Però Massimiliano mi ha detto che si abbinava molto bene anche al Galaxy. Allora ma Danilo ne aveva uno, me lo sono preso. Ottimo! No, adesso devi stare attento, secondo me che si può dire radio metti, comincia a fischiare. Ehi, quando brucia, già dovremmo ammettere un fischio, no, questo non fischia perfetto, la verità, è veramente a posto, nuovo nuovo. E allora Massimiliano, a battagliare tutti i giorni stai andando. Ah, mamma mia, non vedo andarmene in pensione. Chi è che vuole entrare? Avanti, forse c'era qualcuno che voleva entrare, va. E a battagliare, mamma mia, il fegato te ne mangi tutto il giorno. Una volta ci andavo anche io, ci andavo. Sono rientrato. Ehi, già, va bene, riprendi, vai se sei rientrato. Ehi, dai, adesso ho attaccato il 3009. Ammazza. Ho com'è c'è questo qua? Gli ho messo l'M93. Va bene, agganciato? Sì, adesso sì. Sì, la radio è buonissima, 9.30 pieno da me, la radio è buona. Da te, fra? 10 mi arriva. Ma io così da te come sono, fra? Io sto usando 2 watt. Tu me li superi 9.10. Anche così te li supero, sì. Vai, scusami. Va bene, dai, avanti qua. Ehi, ehi, già va bene, già va bene. Il pulsa di... Bravo, dai, signor, vado a farmi una doccia, dai. Ci sentiamo, avanti, riprendi già, riprendo dopo, va. Scappa, dai, ciao Massimiliano, ci sentiamo, va a farti questa doccetta, e poi magari ci facciamo qua, se vuoi rientrare. Scappa, dai, 3009, con pochissimi watt, 3 watt, ciao. Ma se sei sganciato? Sì. Meglio, si vede la differenza, però. Ehi, ho provato a vedere come andava. Vabbè, la radio, Claudio, mi interessa. Va bene questa radio, se no glielo lascio questo microfono. Certo, va bene, alla grande. Kappa, kappa, dai. Allora lo lascio qua. Non ci avevo pensato a metterlo qua. C'è un microfono che non mi ci sta, però, guarda. Ci ho messo il turner e non ci sta più le... L'altro lo devo tenere posticiamente. Vabbè, ciao Massimiliano, dai, ci aggiorniamo dopo. Perché c'hai quel ripiano, capito, per quello che non ci stanno. Ok, no, stai andando bene, fra, funziona bene quel presidente, funziona benissimo alla grande. Ciao Massimiliano, comunque, ti chiamo Alessio. Sì, no, già funziona bene, è parecchio adesso. Però la radio non l'ha sempre stata amplificata, o fra. Prova a alzarlo. Sono 5, invece vedi a vedere adesso com'era la radio. Pure da me non ha sollevato nulla. Non ha sollevato. La sento normale. Ok, vabbè, sono io anche un po' allora, sono la voce bassa. No, già sollevato un po' già. Ehi, caspita. Scusa, sono io col volume basso, dai, prova a vedere. Adesso, vedi, adesso ce l'ho messa a 10, l'ho messo, com'è? No, già va bene, dai, mi sta sollevando. Ehi, spingi un bel, mettilo a 8, fra, 7, 8 va bene. Dai, lo lascio a 7. L'eco ce l'ho a 1. Intanto non si sente, non l'eco. Non si sente da moglie, ha detto che ci veniva. Giorgio mi ha ragione. Ma ha detto che ci veniva. Perché domani manca l'acqua qua a Sosso, signori. Già lo so, già mi tengono aggiornati a me. C'è un lavoro su dove c'è Vito, alla stazione di pompaggio, a Giorra. No, sei infatti. Infatti ha visto che ha messo un articolo anche il sindaco di Sosso. Ma non dovrebbero tardare molto, penso lo finiscono in mattinata, devono fare una deviazione da lì a Signori praticamente, quindi penso che all'ora di pranzo ci sia di nuovo l'acqua. C'era scritto dalle 8 di mattina sino alle 6 di sera. Ma ce la fanno, si prendono il tempo, fra, perché poi una volta che chiudono, capito, poi per rimettere l'acqua in rete piano piano si prendono il tempo, può succedere qualche imprevisto, però è un lavoro di una mattinata, vai tranquillo. No, io sono tranquillo, ci ho osservato io da 1000 litri, mi basta 2 litri. Ehi, 1000 litri, ne abbiamo 52.000 noi. 52.000, è un numero buono, in terrazza è un numero buono, oggi mi sembrava la volta, 1000 litri è anche troppo. Noi ci abbiamo, tu immaginati che possiamo stare per una settimana senza avere acqua dalla rete, ci abbiamo la cisterna a 52.000 litri, infatti lo conto, c'è quella dell'antincendio che è 25.000 litri, poi c'è l'altra che è 27.000 litri, quindi e si bypassa da sola perché quando si svuota quella, la piccola, trabocca quella dell'antincendio, quindi non ce n'è problema. Vabbè, voi ce l'avete in terra, ce l'avete. Non so, tra l'amore da un'altra giù. Allora, Gianni. Ehi, ehi, allora. Sì, adesso come ti arrivo il segnale, sono con 3 watt e mezzo fra. Sì, 8 e qualcosa, così. Ma la radio è bella, vero? Sì, la radio è sempre bella. No, era bella che più prepotente, era più forte, però era chiara, bella, bella la radio. Ehi vabbè, questo qui gli ho messo nemmeno 93 e ho modificato io, dai. Ho cambiato la capsula, ho modificato tutto perché il tasto giallo non mi piaceva, l'ho fatto nero, e tutte le parti gialle le ho fatte diventare nere. Ehi vabbè, io ho dei microfoni che non ho, non so come cosa funziona, sono più usati, sono dentro un cassetto. Per qualche momento mi sono tutti i cambi di controllo. Che tipo di microfono? C'ho le 300, poi c'è l'altro, uno che è uguale al più della Rolex, Rolex, e niente, quindi ho altri dinamici. Il 300 mi interessa, funziona. Sì, la giubilato io, sì che funziona. Ma qua è quello che ho lavorato io fra. No, già funziona, nuovo, nuovo, poi non so se ce lo usava lui. Era parecchio che non lo sto più usando, l'ho usato un paio di volte, basta, che per esempio garage, prendo un garage, gli avevo tolto le batterie. Buonasera Toto, ciao. Ciao mostro, ti ho mandato un messaggio, leggilo. Aspetta. Perché me ne hai cancellato due? Perché tu non le apri subito, allora le cancello. Cazzo, se non mi dai il tempo. Aspetta che adesso te lo rimando il messaggio bello bello, bravo, va, mandamelo, va. Ciao Tony, buonasera, avanti già. Buonasera a tutti, ciao Gianni, ciao Franco, chi sta vedendo qualcosa? Io sotto chi tocca. Ciao Tony. Ciao Tony. Perché sei così basso tu? Perché sono sceso dallo sgabello. Domani mi rimetti rosso lo sgabello. Allora sì, va bene. Ho detto, chi che sta vedendo qualcosa? Microfoni? Replicati, sì? No, io no. No, neanche io, Tony, mi ho preso un salerta da coso, da Danilo, e l'ho collegato al coso, al Galaxy qua, per vedere se funzionava, e sembra che funzioni bene, là. Guarda, Cla, te l'ho mandato adesso, guarda se ti piace cosa ti sta comprando. Cappa, aspetta che lo guardo, riprendi già. E io l'ho già visto, io l'ho avuto a due strumenti, poi c'è anche a 3, Tony. E vabbè, io ho visto questo perché l'ho preso al volo, per quello che l'ho pagato. Ma infatti non l'ho pagato tanto, io vabbè l'avevo pagato 120 lo stesso il mio, e andava molto bene, l'ho avuto, poi l'avevo venduto a Bombolino, poi Bombolino l'aveva dato, mi pare, a Leoncino, Leoncino l'aveva dato a Giulio, insomma ha fatto un giro allucinante. No, io questo qua l'ho preso da fuori, e quindi vicino a Milano comunque, questo Danilo. Ma siamo in casa tua, no? Adesso, l'ho appena comprato, ho fatto il bonifico stamattina, mi è arrivato 2 o 3 giorni qua, là. Mi ha mandato il video e sto quanto, capito? Piaciuto. Bello, l'ho avuto anch'io questo, l'ho avuto anch'io questo, però a due strumenti, rotondo così, bellissima radio, molto bella. È molto bella perché c'è una figura eccezionale. E poi nuovo, visto, Questo è un radioamatore, questo ragazzo qua, ragazzo, vabbè, l'ho preso piccante comunque. È un radioamatore, detto, guarda, fai un figurone, sarai contento. 130 euro, dai. Anche quell'apparecchio, perché pompava. Cosa già? Che fa pure bene, e va molto bene con l'apparecchio. Io ho avuto lo Washington, che aveva 2 strumenti. Washington si chiamava il mio. Mi pare anche il mio allora. Mi pare anche il mio, era un Washington. 2 strumenti così rotondi, bellissimo. Molto bello, no, Tony. Bravissimo, il prezzo suo, quelle radio lì vanno da 100, 130, 140, capito? È il prezzo suo, no, non hai buttato via i soldi, Una bellissima radio, Tony. Lì se ci metti una BB più 5 fai un figurone, fai un K. Niente, lui l'ha messo così, 130, fatemi l'offerta, chi deve fare la 70, chi 90, io sono entrato e ho detto, a Danilo, io ti ho fatto quello che tu hai detto, perché e ho un baracchino vintage, vecchiotto, bello, giusto, bene, sto quanto, 130, e 130 di nuovo, ti pago un bel pezzo, e infatti l'ho mandato giù 50, l'ho fatto addirittura il coso veloce, entro mezz'ora di aria mi sono arrivato, cioè sono contentissimo, dice grazie per la fiducia, beh, io ho fatto un po' di tipo bancario, quindi più tranquillo di così. Alla grande, ma dove, dove è, su internet? No, no, su Facebook. Ah, su Facebook, no, una bella radio, vai, sei andato di lusso, Tony, una bella radio, perché l'ho avuta anch'io, ed è veramente una bellissima radio, anche come figura, ma poi funziona bene. Sì, ho presidente un po' vecchiotto, ma è tenuto bene, a me piace, faccio sentire la ricezione e tutto, bello, bello, veramente, mi piace, perché, certo, devo modificare la